English 24. Buonasera da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Per il nostro appuntamento settimanale con la lingua inglese, questa volta incontriamo un attore che a Giulia piace molto, ve lo confesso subito. L'ho incontrato qualche settimana fa al Festival del Cinema di Roma, è il bel Colin Farrell. A Roma lui presentava un film che era Pride and Glory e noi gli abbiamo chiesto così un po' di cose della sua carriera e della sua vita. Intanto l'abbiamo fatto parlare di questo film nel quale recita la parte di un agente corrotto e per lui quindi un altro ruolo di cattivo, e gli abbiamo chiesto: c'è qualcosa che vorrebbe fare di diverso, ma perché lui fa sempre questi ruoli da cattivo? I've never really had a list of directors or characters that I wanted to involve myself with, and that's kind of worked out for me up until now, so I'll just keep it that way. I mean, maybe one of the reasons why there's so much violence in the last few films I've done, or over the years actually, in stories that I've been a part of, is because violence, I do find, while it's infinitely appalling, I find it fascinating. It's human behavior at a very magnitude and very ugly level, and the reasons that take a person to the place where an act of violence seems like a good idea is fascinating, I find. And I have a very peaceful life myself, you know, which I'm very fortunate for, so it's a big separation from what I'm used to. Allora Giulia, diciamo subito irlandese. Sì, irlandese, si sente questo bel accento diverso, no? Si percepisce comunque la differenza, ci sono, soprattutto quando dice you, me, si sente, lo avrete colto senz'altro. Un personaggio che ha occupato a lungo le cronache per certi suoi comportamenti un po' sopra le righe e invece parla di una vita molto pacifica, si esprime in maniera molto serena. Intanto dice: non ho dei veri ruoli che vorrei recitare o dei registi coi quali vorrei lavorare. Insomma, è abbastanza possibilista. Cosa dice Colin? Dice infatti: I never really had, quindi non ho mai avuto, a list of directors or characters. Quindi directors sappiamo che sono i registi, characters non caratteri ma personaggi, that I wanted myself to get involved in. Sapete che quando c'è un verbo composto la particella va sempre alla fine, no? Quindi to get involved in, myself to get involved in. Quindi non posso dire di avere una lista di registi con cui avrei voluto lavorare, cioè con cui avrei voluto un coinvolgimento, no? To get oneself involved in something. E ha detto che in un certo senso è andata bene finora, continua, va avanti così, prende quello che gli capita. Sì, dice questo, usa questo kind che abbiamo visto che può essere, oltre a voler dire un sacco di cose, può anche essere un po' un intercalare, quindi dice it's kind of worked out for me, che letteralmente vuol dire più o meno ha funzionato, no? To work out vuol dire, vabbè, a parte che vuol dire anche fare esercizio, il workout è l'esercizio fisico, ma to work out vuol dire funzionare for someone, quindi per me ha funzionato così, e lo diciamo anche in italiano. Lo abbiamo detto, lui qualche comportamento un po' eccessivo l'ha tenuto, ed effettivamente dice che il fascino di storie un po' estreme lui lo subisce. Si sente questo fascino della violenza, dice, cerca di mettere le mani avanti, I do find it, e poi spiega ancora meglio, while it's infinitely appalling, quindi while, sta con, in italiano potremmo dire da una parte è infinitamente appalling, è qualcosa che proprio trovi tremendo, quindi trovi censurabile, quindi da una parte è infinitamente censurabile e dall'altra I find it fascinating, naturalmente affascinante. Beh, se volessi essere cattiva direi che lui sta un po' cercando di ripulire la sua immagine pubblica, perché lui dice I have a very peaceful life myself. Non ha dubbi. Dice che la cosa divertente è indagare the reasons that take a person where an act of violence seems a good thing. Quindi ci spiega che in realtà gli piace fare queste parti perché così entra nella psicologia delle persone che vengono portate to take a person where, nel punto in cui l'atto di violenza sembra la scelta giusta. E a questo punto ci chiediamo, ma come convive con questi ruoli pieni di violenza? Hanno un impatto nella sua vita di tutti i giorni? Sometimes you're playing a character who's closer to who you feel you are, to who the fabric of yourself, and sometimes you're playing a character that's very disparate from who you believe yourself to be, at least. And Jimmy Egan certainly lived under a whole set of rules and actually had a code of ethics, but something that's very different from any code that I would have. Of course, it stays with you a little bit. It's 12 or 14 hours of your day, You know, yes, you're in between takes, you smoke a cigarette, drink coffee, maybe do that, eat something. But it's 14 hours of your day. So inevitably, just by nature, not by choice, it sometimes affects your moods. Sometimes you don't want to talk, go home, just want to be in your own maybe, you know, or steam. We go and sit around the steam room for a few hours. But it sometimes gets into your dreams, sometimes. Allora, lo confessa, succede che il personaggio possa un po' influire sulla vita di tutti i giorni perché ci si sta tanto a contatto. Sì, in inglese naturalmente recitare si dice to play, quindi sometimes you are playing a character, quindi reciti la parte di un personaggio who's closer to who you feel you are. Trovo molto interessante, purtroppo Marta l'ha detto, a me Colin Farrell piace indipendentemente da tutto, però a parte gli scherzi, trovo interessante questa sua umiltà nel dire non di chi, la certezza di chi sai di essere, ma who you feel you are, quindi addirittura mette tutto in dubbio, no? Comunque la percezione che noi abbiamo di noi stessi è comunque molto relativa, anche se noi siamo sicuri di una cosa. Vabbè, tu lo troveresti profondo anche se stesse leggendo le pagine gialle. Comunque lui dice, a volte tu ti trovi davanti a una parte completamente diversa da quello che sei, però rimane in un certo senso con te. Sì, poi sottolineo un'altra espressione bellissima che usa, che è fabric of yourself. Fabric naturalmente non vuol dire fabbrica, significa tessuto. Anche qui lo trovo un modo molto interessante di esprimersi. E poi lui dice che questi personaggi a volte stays with you, cioè restano con te anche quando vai a casa, cioè quando hai finito di girare. Addirittura te li sogni di notte. Te li sogni di notte, poi lui ci spiega che lavora tantissimo perché la vita dell'attore è 12 o 14 hours of your day, quindi lavorano anche 14 ore al giorno, però quando se ne va a casa questi personaggi gets into your dreams, si infilano nei tuoi sogni. Un po' come potrebbe fare lo stesso Colin Farrell, ma noi non indagheremo. Colin ha soldi, successo, che per molti poi sono il sogno di una vita. Ma tutto questo, ci chiediamo, lo rende felice? I do know personally from the inside that the idea of fame, success, the idea of success is relative. What is success? You know, success is you helping a blind person across the street today. It's literally, that's a success, you know, if you look at it. So it's all relative, but the idea of fame and money, as we know, being a conduit to happiness in and of itself by their mere presence in your life is an illusion. Cynics would say, oh, it's easy for you to say it's a fucking illusion, you know, from the inside you have it. It is, because I have experienced those things and I've seen that they don't in and of themselves deliver happiness to your door. If you look at the majority of people over time who have had great success in whatever it is they do, you will find per capita not that much happiness. Un singolare mix tra proprietà di linguaggio e qualche parolaccia infilata qua e là, ma è giusto che sia così. Lui dice I do know, questo rafforzativo di know, no? Sappiamo che lui avrebbe potuto benissimo dire I know, quando ci mettiamo davanti anche quel do, rafforziamo, quindi proprio dire lo so benissimo, diremmo in italiano, no? So benissimo, personally from the inside, anche qui proprio tautologico, nel senso che dice personalmente dall'interno, quindi vuole sottolineare che è un'esperienza che ha fatto lui stesso, e dice the idea of fame and success is relative to what is success. L'esperienza, l'idea di fame, la fama, il successo, successo è una parola che lo convince di più, la usa più spesso, è relativa. È relativa perché lui fa un esempio. Io vi posso raccontare la scena. Lui era accanto al regista di questo film Pride and Glory, Gavin O'Connor, e gli ha detto tu hai fatto una cosa oggi e questa cosa è un vero successo. Lui ha aiutato una persona non vedente a attraversare la strada. Dice you are helping a blind person across the street and that's literally a success. Questo è un atto di successo. Quindi ripete it's all relative, questa idea of fame and money. Io ho dovuto consultare un paio di volte il dizionario per tradurre preventivamente questa intervista del nostro Colin Farrell, perché lui usa anche dei termini che non sono sempre nel linguaggio quotidiano, insomma ci stupisce con certe espressioni che non ci aspetteremmo da un attore con quest'area da maledetto. Sì, ecco. Spiega che appunto è un'idea, se vogliamo, anche un po' filosofica, che la fame and money, quindi la fama e il denaro, non sono un conduit to happiness. Conduit è un po' il salvacondotto, ciò che ti porta alla felicità, alla strada privilegiata. E effettivamente, se ci pensiamo, lui stesso ha avuto grossissimi problemi di alcol, quindi evidentemente, nonostante la fama e tantissimi soldi, per Alessandro aveva preso svariati milioni di dollari, non era appunto il salvacondotto per la felicità. Non è la loro semplice mera presenza. It's not the mere presence, quindi mere, proprio come diciamo noi, mera, quindi non è la mera presenza dei soldi e della fama. E poi lui qui usa appunto la parolaccia e fa l'avvocato del diavolo, come se appunto noi gli potremmo dire it's easy to say for you, certo che per te è facile da dire, it's a fucking illusion, cioè un po' un'illusione del cavolo. Ecco sì, traduciamolo così, perché comunque è un'espressione che viene utilizzata moltissimo nei film, se qualcuno li ha visti in lingua originale. Vorrei solo soffermarmi sull'ultima espressione che dice you will find per capita not that much happiness. Addirittura sì. In latino ci parla. Dice, se guardate tutte le persone che over time hanno avuto success in whatever it is they do, you will find pro capita, noi diciamo pro capite, ma sarebbe più corretto se fosse latino rigoroso pro capita, cioè per testa, not that much happiness. E anche qui, come facciamo a dargli torto? Colin è un genio. Io ve l'ho detto all'inizio, perché non ne saremmo mai usciti. Insomma, Giulia darebbe ragione a Colin Farrell in qualsiasi frangente. Tra l'altro ritroveremo Colin Farrell anche sul nostro English 24 in edicola, perché gli abbiamo dedicato una pagina, quindi l'appuntamento con l'inglese è in edicola con English 24, invece con noi è per sabato prossimo, perché il nostro tempo finisce qua. Io ringrazio in regia Giorgio Matè e Daniele Teruzzi, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli l'augurio di una buona serata.